Va bene, iniziamo. Se avete voglia di accomodarvi o comunque di abbassare il tono della voce, e iniziamo lo spettacolo di Cleopatra la Dolce, come ricordiamo una nostra amica e compagna, con lo per favore, e con lo spettacolo Non pensare diventa. Aspetta, meno male che me lo sono segnato nella mano, perché se no sarebbe stato un guaio. Fammi tirare bene la riga. Non lo facciamo. Ma tutta questa gente qua, cioè, perché siete venuti? No, nel senso, non è che vi aspettate uno show, uno spettacolo, no? Perché io non sono capace. Ve lo dico, e me l'hanno detto l'altro giorno così, mi hanno detto: ma vuoi mica fare un salto, a fare due cose, farti vedere così? Infatti mi sono messa la prima cosa che avevo a casa e sono venuta da voi, proprio uno spettacolo, quello no, perché non sono capace, non so cantare, non so recitare, non so fare nulla praticamente, no? Quindi, però, vabbè, vi vedo comunque che se rimanete lì tutti, sì, e vedo anche che c'è gente che mangia. E mi dica, signora, lei, ma ha pagato per venire qua? Sì? Ha dato qua? Sì, lei, dico. Ah, ecco. Cazzo, hanno anche pagato per fare lo spettacolo. Vabbè, sentite, facciamo così. Facciamo sta boiata che non, cioè, nel senso, poi vediamo un attimo come arrangiarla, perché io so fare quelle due o tre cosette così ho imparato. Vi teniamo compagnia per un po' di tempo. Fra l'altro vi volevo dire una cosa. Ci saranno due cose che sono importanti. Una è proprio che ci sono dei momenti in cui io dirò: ho sentito una canzone. Quando io dico questa frasetta, cominciate serenamente a cagarvi tutti addosso, perché poi la canto. Sì, e come vi dicevo prima, io non so cantare. Però, vabbè, quindi magari voi, ecco, fate una cosa. Quando io vi dico questa cosa, anche per farla un po' breve, no? Perché sennò poi è un casino, perché poi mi metto a cantare. Poveri voi. Se vi venisse disgraziatamente un po' di prurito alla mano, ogni tanto, una cosa semplice, che vi viene da fare proprio così, anche poco, no? Che io così mi sento un po' sollevata e non ho questo impatto un po' forte. Non volevo comunque adesso, comunque vabbè, poi vi dico io quando. E meno male che vi è venuto un po' di prurito, perché sennò sono guai. E, quindi niente, quindi adesso io vi lascio, cioè proprio vi lascio, nel senso che organizzare uno spettacolo venerdì 17, ma glielo vogliamo dire che sono delle bastarde? Ci mancava che fosse tutti vestiti di viola, eh? Brave loro! Bella idea abbiamo avuto, no? Tanto è la Cleo che si sbatte come un idiota, che cazzo gliene frega a loro. Brave, sì. Tesori. Ma come me la pagano, lo sanno solo loro nella prossima assemblea. Comunque, detto questo, non pensare diventa. A volte si pensa troppo, è meglio diventare. Guardate qua che popò di... che fagottata di roba.

trouve qu'on est la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. Et dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. A voi piace il calcio? A me no. Io impazzisco per il basket. Non condannatemi. Il rumore delle scarpe di gomma sul pavimento arancione, i tabelloni di plexiglass. E poi trovo particolarmente eleganti i giocatori quando saltano sotto al canestro per andare schiacciata. Meglio di Roberto Bolle. Eh sì, sono sempre stata quella snob, quella alternativa, quella precisina che preferisce le geometrie di un film di Sorrentino al Signore degli Anelli. E allora? E allora tutti giù a bullizzarmi, ma io me ne frego, perché quando vedo i fenicotteri in posa sulla scalinata di Roma mi viene una stretta allo stomaco e piango, mi commuovo. Essere diversa. Sono diversa. Ma non è stato facile accettarlo. Ero così piccola. E mi domandavo, ma perché proprio io? Che poi, dico la verità, io ci ho provato a seguire la massa. pur di farmi accettare, ho provato a vivere senza sentimenti. Sono anche andata a un concerto di pinguini tattici. Dio, che obbrobrio! Sono tornata a casa, mi sono guardata allo specchio e mi sono detta: cogliona, sei una cogliona. Mi dicevano i miei genitori: non sei una cogliona, sei unica. Non hai bisogno dell'approvazione degli altri. No! Non sono unica. Sono diversa. Anzi, diversamente unica. Esattamente come voi. Fedele a me stessa quando rido, quando piango, quando soffro e quando gioisco e quando vado in treno a Parigi, perché mi piace stare sulle rotaie. Così, fra cielo e terra. Oh, oh, che testa. Quand tu me prends dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit de mon amour. Non ma dico, che cazzo vi state applaudire a sta stronza travestita, ma dovete spiegare. So Giorgia Meloni, buonasera a tutti, a stronzi. So Giorgia, so cattolica, so etero, so donna, so tutto. Datevela a fanculo, brutti anarchici, tiè. Un attimo, perché mi è sale il destro, capito? Mica per altro. Io ho detto... mi sale il destro quando parlo, così mi fa così, io sta giù scemo, che sta a fa? Mi hanno comprato sta parrucca per fare Meloni che io in tutta la vita mia non ne ho vista una così brutta proprio, vabbè insomma dai. Comunque ve la dovete smettere di fare serie, di fare le donne che vanno a farsi visita, che c'hanno sempre qualcosa da rompere i coglioni, ve spezzeremo le reni brutte anarchiche, capito? Sta giù te. Capito? Mamma mia, quanto sono stanca. Ora scusate perché deve tornare l'amica mia che deve cantare. Adesso mi devo, sì. C'è più il microfono e quindi siamo tranquilli, no? Siamo sereni. Tanto canta a voce piena, che cazzo gliene frega, allora è venerdì 17, quindi... vado a sinistra, che questa è la destra poi, no? Così a occhio, però vabbè. Allora, da capo. Era la mia destra, che però era la sua sinistra. Mamma, che roba! Ma sono brava però, perché so anche distinguerle, guarda che roba. Cosa facciamo? Idratiamo le corde vocali, sì, perché sennò è un disastro. Già canto di merda, figurati un po'. Brava! No, ma dico, Avete visto che tette? Erano anni che le sognavo così belle io. C'è qualcuno che ha detto anch'io. Ora, non vorrei dire, ma... insomma. Come vi dicevo prima, ho sentito una canzone. Allora, è in un film che è apparentemente un bel film, e poi in realtà si potrebbe discuterne, no? Nel senso che c'è ancora domani. A me è piaciuto. Poi è vero che il diritto di voto alle donne, col cazzo che ha cambiato la condizione della donna, no? L'abbiamo visto poi nel tempo, l'abbiamo capito sotto mille profili e in mille momenti storici diversi. Però il film a me è piaciuto. Ma soprattutto mi è piaciuta tantissimo una canzone di Concato. Ora sono cazzi! Una canzone di Concato che, ecco, poi io adesso ci provo, poi insomma voi vedete cosa dovete fare. Io mi ammazzo se non viene, quindi non è un problema, state sereni. State proprio sereni. Se volete anche così lanciare la base prima che io mi tagli le vene. Mi sento strano davvero, da un po' di tempo è così, succede sempre ogni volta che sei qui. Tutto mi sembra migliore, capisco bene cos'è, capisco che mi innamorerò di te. E mi addormento con te, sembra un malanno ma è buono come te. Mi fa sentire leggero, sorridi e stai come me. Lo sai, mi sto innamorando anch'io di te. E vai che mi innamoro davvero, e troppi giorni da quanti, quasi una vita a cercarti, adesso ti ho qui davanti e vedrai, vedrai che di tempo ne avrò, ne avrai, amore quanto vorrai, e che non basta mai. E ci teniamo per mano, siamo in silenzio io e te. Certo che buffo, son teso più di te. Ti sento fra le mie dita ed è un piacere così. In questo istante la vita è tutta qui. E vai che mi innamoro davvero, guardami, sono sincero, provo le stesse tue cose adesso, ti ho qui davanti e vedrai, vedrai che di tempo ne avrò, ne avrai, amore quanto vorrai, e che non basta mai. E vedrai vedrai che di tempo ne avrò, ne avrai, amore quanto vorrai, e che non basta mai. Mi sento strano davvero, da un po' di tempo è così, succede sempre ogni volta che sei qui. Bah. Un altro cambio veloce, ve lo prometto, e poi salgo e facciamo un po' più di casino, perché sta cosa un po' tranquilla, dopo un po', facciamo esplodere un po' i coglioni. Mi è esploso un coglione. Quindi vengo, torno, mi spoglio, mi cambio, mi levo queste tette perché è un incubo, e balliamo, poi magari facciamo una cosina un po' in lip sync. Vi piace l'idea? Crazy world that's raging outside, but baby, me and all my girls are bringing on the fire. Show a little leg, gotta shimmy your chest. It's a life, it's a style, it's a need, it's burlesque. Sex, ladies, no regrets. E, X. I'll bring it on the fire. Show a little leg. Gotta shimmy your chest. It's a life, it's a step. It's a knee, it's a burlesque. Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. And I just gotta tell you right now that I believe, I really do believe that something's gotta hold on me, yeah. Oh, it must be love. Oh, something's gotta hold on me right now, child. Oh, it must be love. Let me tell you now, I got a feeling, I feel so strange. Everything about me seems to have changed. Step by step, I got a brand new walk. I even sound sweeter when I talk. I said, oh. Put a hurting on me. I said, oh. Oh! adesso. Io non ho l'età, partiamo da lì. Non ho più l'età per fare queste cose. No, no, no. Adesso portate pazienza, perché io ho questa cosa che se non mi cambio almeno 3 volte in uno spettacolo non mi sento serena. Sono sempre un po' così, un po' frufru, anche quando mi esibisco. E cambio, veloce, spero. E poi facciamo un'ultimissima cosa, così vi ho tenuto compagnia. Ho sostenuto le compagne, in cui credo tantissimo. Brutti stronzi, è inutile che applaudite tutti sperando di non dare i soldi. Dovete pagare. Ecco appunto, sì. Lo dico sempre anche a quelli che... ma non lo fanno mai. È una cosa che sarà che sono un po' in età adesso, quindi una volta mi pagavano. Erano cazzi se non mi pagavano. E, quindi se mi fate la gentilezza poi di dare il l'obolo su di loro, che mi fa tanto piacere, e mi raccomando... Adesso arriva l'ultimo numero che vi dedico a tutti voi ed è l'affermazione del momento del mio passaggio. È una canzone particolare che poi adesso vi che canterò di nuovo di merda come prima, però diciamo che avrà un minimo di cosa. Poi c'è l'abito che fa un sacco di scena, quindi insomma troviamo il modo. Dura poco, è 2 minuti e 45 e passa la paura, ragazze. Sereni, tranquilli proprio. Allora un minuto solo e arrivo. I am what I am my own special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I. I think it's pretty. my own special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. Allora, vi piace? Sì! Ma dico, avete visto? Ho dimenticato il perizoccola. Scusatemi. Perché questo ha una scollatura dietro che è un po' profonda, no? E che quando non ho il perizoccola si vede l'attaccatura proprio qui. Cattiva. Pensate che mio figlio non me lo vuol far indossare al suo matrimonio. Ora, io sono sempre stata una che amava il rosso. Per due piume non credo che sia il caso di fare questa scena, ora. Perché non lo capisce. E molti, molti, oltre a mio figlio, non capiscono cosa ci sia come differenza, no? Cosa importa se a me piacciono i brillantini, la purpurina, si dice in spagnolo? Qual è la differenza? Qual è il problema? Io sono quello che sono e lui mi deve amare così. Io non nascondo nulla. Mi vedete così come sono. Io soi lo che soi. Io soi lo che soi. Mi creación única y libre. Ven, entra a mirar para silbar, para aplaudirme. Mi mundo es donde pido que se me respete. Busco cómo ser feliz sin esconderme, que triste es vivir si has de callar siempre. Yo soy lo que soy. soy. Yo soy lo que soy. Es lo que hay. No oculto nada. Sí, esta es mi voz. Y os guste o no, a mí me encanta. ¿Qué pasa si me piro por la purpurina? ¿Por qué no lo veis desde otra perspectiva? ¿Qué triste es vivir sin exclamar fuerte? Yo soy lo que soy. Yo soy lo que soy. Y lo que soy no admite trampas. Hoy me sale un as, mañana un dos. Juego mis cartas. La vida es la que te construyes paso a paso. No hay más que salir del puñetero armario. ¿Qué farsa es vivir sin proclamar mundo? Yo soy lo que soy. Porca troia, che fatica che ho fatto. Si vede che la sento questa canzone un po', dai. Allora, in questo momento così io avrei finito. No! Che bastardo. Che bastardo. Allora facciamo così, va bene. Allora facciamo una cosa, vi racconto in poche parole, anche qui sono 2 minuti e mezzo, quindi state sereni, è una cosa che dura poco perché poi a un certo punto dice la Madonna questa com'è pesante che racconta sempre di se stessa, mamma mia che noia, anche io certe volte mi annoio di me stessa in una maniera tremenda. Vi racconto la notte della mia transizione. E ve la racconto così, come è accaduta. Spesso questo piccolo monologo non viene subito capito, non è subito di impatto, ma poi si capisce. E poi se non lo capite, insomma, sono un po' casivose. Poi io sono anche stanca, perché ora se io ho un'età e sono sui tacchi, cioè, voi qua, stronzette, non ce n'è una che si metterebbe dei tacchi così per 2 ore, maledette. Dai. Fra l'altro, voi non ci crederete, adesso vi faccio ridere, mentre facevo le prove, perché io in realtà ho fatto delle prove, ora con com'è venuta sta roba non si direbbe, però diciamo che comunque io mi ci sono anche un po' impegnata, sì, brava lei, e durante Natale, brava, e poi c'era lui, quell'uomo, quel povero disgraziato lì che è seduto, che eravamo in albergo a Napoli, in un albergo carino, tranquilli noi due, amorosi come due cuccioli, proprio io mi alzavo così la mattina per far riscaldare, e lui diceva amore ma dobbiamo proprio cantare la mattina, sì no, la sera no, no perché la mattina così ho le corde più, brava lei, sì. E quindi adesso mi metto, perché questo sembra facile, no? Ma poi uno lo mette e dice ah che bella che è lei, ma tu prova a rimetterlo poi quando lo hai levato, testa di cazzo. Perché ha questa cosa qua che è di una complicazione. Mamma mia, sono tutta fermata dalla punta dei capelli alla punta dei piedi, mi sento una zingara, ragazzi, non so come mai. Allora, se volete. L'ho incontrata una sera al supermercato, uno di quei giorni in cui esci a comprarti la cena e ti si affollano nella testa milioni di pensieri. Ma il vero problema non è quello che stai pensando. Il vero problema sei tu. E ciò che non sei mai riuscito a essere. E ciò che avresti voluto. Ma non ce l'hai fatta. Poi è arrivata lei, mi ha porto le mani e mi ha detto: adesso basta, vieni via con me. E io le sono corso dietro, siamo andati di corsa a casa mia ed è stata una notte incredibile. Dico la verità, io sapevo che dopo quella notte nulla sarebbe stato più come prima, ma sono andato lo stesso. Da quel momento lei è stata tutto ciò che io non ero mai stato capace di essere. È stata la mia bocca che tremava davanti a un nuovo amore. È stata i miei sguardi più dolci e quelli più duri quando sei arrabbiata. Quella notte ho volato in un tripudio di rossetti, di farde, di ombretti, di smalti e di calze autoreggenti che avevo comprato proprio lì, quella sera. E allora mi sono detta: ma forse devo essere lei sempre, per sempre. E poi mi sono detto: no, questa volta no. Questa volta non mi accontento più. Questa volta voglio essere lui e voglio essere lei. Ed è stato come quando si aprono le braccia per la prima volta e si esce da una cella e quella prigione sei tu. Sei sempre stato tu. E le dita diventano come delle piume e cominci a volare e non ti può più fermare niente, nessuno. Bravi voi, che siete sempre ciò che volete essere. Bravi. Ma non quello che vi dite nei momenti intimi fra di voi, quello che siete dentro veramente. È stato l'unico modo di essere me, di essere lei. Ed è l'unico modo che conosco per vivere per sempre. Don't let another day begin. Won't let the sunlight in. Grazie mille a tutti. I'll never love again. Non pensare. Diventa.